voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Sei la macchina? Fuori una serata proprio, hai primavera, grilli in profumo, e lei vuole fare l'amore in macchina. Dico, ma che si grulla all'amore in macchina? O non la senti fuori la natura che chiama? Quando la natura chiama, che bisogna fare? L'uomo risponde. Oh, scusa. Allora, si scende dalla macchina e ci si mette lì davanti al cofano. E io che te la pongo in pole position. Così, guarda. Ho capito. Mamma mia, che sarà mai? Ti preoccupare, vai. Tu sei mio tipo. Sì. Ti piacerebbe, ma non tu sei. Sì, insomma. Allora. No, perché è complicato, ma interessante. Nel far perno sulla gamba sinistra per dargli di zifonella, no? E sento che c'è l'agghierino, scivolo, ta, e la mi casca di mano. E pa, batte la testa contro la targa. Allora io pronto, tra, la ripiglio al volo, e è lì che mi sono fatto male. E mi fermo per vedere come la sta, perché Dio buoni, non sono mica una bestia. Certo. Ma lei, sì. Allora io, ti ting, ridagnere di zifonella, capito? C'è un cliente. Sì. Eccoci. Pronto il motorino per il nipotino. Si preoccupi, non glielo ho messo incinta. Sitting in her Honda, feeding in the parking lot. I had a heart, but she slayed me and she took me apart. Anaconda, call her by Yolanda, kissing in a 4x4. Her bedroom door has a lock and a window pane. All my money's down the drain. I'm insane, but I do it again. It never costs much, but I tell you I'm not done yet. I do it again. I think I must, if I will win. I think she likes me, come again. And I think she'll teach me how to swim. Waiting for the backseat show. She's go, go, go. And I'm shaking my pom, pom, bon, bon. Now she's swimming in the deep, in the jungle. Nile isn't far away. And I must say that I'd give her to any day. All my money's down the drain. I'm insane, but I do it again. I must confess, I'm hardly depressed. Oh yes, she's coming again. I think she likes me, come here again. I think tonight I'm gonna win. She'll let me swim, well, let me in. Solo. She'll swim and let me in. profumo di eclettica. This is one thing that I was going to wait a while before we talked about. Maybe we'll talk about it now so you can think about it, because we all have to make some kind of plans for ourselves. It's a free concert from now on. Thing you have to remember tonight when you go back up to the woods to go to sleep, or if you stay here, is that the man next to you is your brother, and you damn well better treat each other that way, because if you don't, then we blow the whole thing, but we've got it right there. Thank you. È iniziato ormai da parecchi minuti la seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni, come succede tutti i giorni qua sulle frequenze di Rock FM fra le 19 e le 20, e si è aperta quest'oggi con il duo taiwanese, però di base a New York City, di nome Misha. Quest'oggi ce li siamo ascoltati con Anaconda, una delle tante interessanti tracce dal loro album d'esordio. E poi è stata la volta di Profumo di Eclettica. Questa settimana la carta ce la siamo giocata subito di lunedì, la carta di Profumo di Eclettica, che ci permette di andare a ripescare dalle vecchie playlist di questa trasmissione i brani che le hanno caratterizzate, le rotazioni più frequenti. Il salto di quest'oggi è stato parecchio all'indietro, è stato un salto di 10 anni, quando per Concrete uscì l'album Dead Elvis da parte dei Death in Vegas. Già avevano i Death in Vegas un riferimento a Elvis Presley nel loro nome, con quell'album ne fecero un ulteriore, Dead Elvis, Elvis morto, Elvis di cui fra l'altro il 16 di agosto è caduto l'anniversario, il 30° anniversario della morte, appunto. E anche nell'iconografia della copertina si riallacciarono ad Elvis, con un'immagine di Elvis con aureola ripresa in diversi colori, un po' alla Andy Warhol, per capirci. C'erano ben 2 brani da quell'album che in quel periodo trovarono spazio all'interno di Eclettica, All That Glitters e Dirt. Come al solito c'è molta indecisione da parte mia quando devo scegliere fra più tracce, in questo caso la scelta è caduta su Dirt. Ora ci ascoltiamo quello che è un nome nuovo invece per Eclettica, non lo è assolutamente in senso assoluto, ma lo è per Eclettica. È un brano questo che risale addirittura come sua prima pubblicazione al 1999, era contenuto in una demo cassette, un disco mai pubblicato che è rimasto semplicemente negli annali, nelle discografie ufficiali, ma mai è stato pubblicato. Lei, esattamente come i Misha precedentemente citati, fa di base a New York, ma come i Misha non è originaria di New York, anzi è nata a Mosca e nel periodo della perestroica la sua famiglia ebrea riuscì ad espatriare, e in un giro che le fece toccare vari paesi, fra cui anche l'Italia, arrivò a New York City. Sto parlando di Regina Spektor, che ci ascoltiamo con il brano Ooh America. Sentirete poi come lo sfrutta all'interno di questa canzone, che da allora, da quel lontano 1999, ha trovato poi una pubblicazione proprio l'anno scorso, nel 2006, all'interno di Begin to Hope, quello che è il suo ultimo disco ufficiale per la Sire, all'interno di un secondo CD, perché il CD ufficiale di Begin to Hope non conteneva questa America, ma in un'edizione particolare c'era un secondo CD dove il pezzo era effettivamente contenuto. Mrs. E. Roosevelt never heard me shoot my gun. La, la, la. Mrs. E. Roosevelt didn't even know I owned one. La, la, la. Somewhere between a cobblestone floor and a slated wooden ceiling. La, la, la. Cuddling my semi-automatic with a very fuzzy feeling. La, la, la. Oh. There's nothing like emptying a cartridge at the sun. Ooh, America. Ooh, America. Ooh, America. Ooh, America. Ooh, there's nothing in a cartridge at the sun. Oh, we're born alone and then we're covered by my mother's kisses. The mind has already forgotten what the body still misses. Somewhere between a sticky floor and the cracks in the ceiling. Cuddling my semi-automatic, what a very fuzzy feeling. Nothing like emptying a cartridge at the sun. Ooh, America. Ooh, America. Ooh, America. Ooh, America. Ooh, shooting a cartridge at the sun. One more time. Ooh. America. Ooh. America. Like emptying a cartridge at the sun. La la la. Emptying a cartridge at the sun. La la la. Emptying a cartridge at the sun. Hanno fatto saltare in aria l'uomo esca a Philipsburg l'altra notte. Ora gli hanno fatto saltare anche la casa. Giù, sulla passeggiata, si stanno preparando per uno scontro. Vedremo cosa sapranno fare quei ragazzi del racket. Ci sono guai in arrivo da fuori. Lo Stato e il giudice distrettuale non hanno un attimo di pace. Ci sarà movimento sulla promenade e le commissioni per il gioco d'azzardo si reggono ormai per miracolo. Tutto muore, piccola. Così vanno le cose. Ma forse tutto quello che muore un giorno tornerà indietro. Rifatti il trucco, sistemati i capelli e incontriamoci stanotte ad Atlantic City. Ho trovato un lavoro e ho cercato di mettere qualcosa da parte, ma ho debiti che nessun uomo onesto potrà mai pagare. Così ho ritirato tutto quello che avevo alla Central Trust e ho comperato 2 biglietti per quel bus che gira per le città della costa. Forse la nostra fortuna è finita e il nostro amore si è raffreddato, ma rimarrò con te per sempre. Andremo là, dove la sabbia si trasforma in oro. Mettiti le calze perché le notti si fanno fredde. E magari tutto muore, piccola, così vanno le cose. Ma forse quello che muore un giorno ritornerà indietro. Adesso mi sto cercando un lavoro, ma è difficile trovarlo. Qua giù ci sono solo vincenti e perdenti. E non devi finire dalla parte sbagliata di quella linea. Io sono stanco di stare dalla parte dei perdenti. Questo era l'incipit di Atlantic City di Bruce Springsteen. You must allow me to reason with you. È sicuramente un vantaggio avere a disposizione il podcasting, è un vantaggio per me che la trasmissione la conduco ed è un vantaggio per voi che la trasmissione la ascoltate, perché per esempio posso permettermi di dire determinate cose e queste cose sono possibili grazie appunto all'esistenza dei podcast a cui so siete estremamente fedeli. Per esempio, posso dirvi che vi siete appena ascoltati The Desert Fathers, di cui settimana scorsa avevo ampiamente parlato, citando anche le dichiarazioni a loro proposito da parte di Steve Albini. Desert Fathers appena ascoltati con The Art of Reason. Come per esempio sempre settimana scorsa vi ho parlato abbondantemente di Akron Family, che ci stiamo per ascoltare con Phenomena, e quindi andando a ripescare quei podcast potrete anche recuperare le cose che già ho detto. Phenomena, phenomena. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 45, volume numero 1. Indice: Speck Mountain, Jens Lehmann, Marnie Stern, Jonette Napolitano, Bishop Allen, Marchos, Misha, Death in Vegas, Regina Spector, The Desert Fathers, Akron Family, Mum. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.